Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A volte il destino si serve dell'istinto per portare a termine i suoi piani. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo di un uomo che ha scommesso su un altro senza bisogno di pensarci un attimo. La storia della moda è spesso fatta di questo, di persone giuste nel momento giusto, di suggestioni perse e di occasioni colte, di passione e di vanità. E in questo caso anche di chiromanti e predizioni. La moda è imitazione di un modello dato e appaga il bisogno di appoggio sociale, conduce il singolo sulla via che tutti percorrono, dà un universale che fa del comportamento di ogni singolo un mero esempio. Non di meno appaga il bisogno di diversità, la tendenza alla differenziazione, al cambiamento, al distinguersi. Così la moda non è altro che una delle tante forme di vita con le quali la tendenza all'uguaglianza sociale e quella alla differenziazione individuale si congiungono in un fare unitario. Alla fine dell'Ottocento, con queste parole, il sociologo Georg Simmel ha sintetizzato la doppia funzione della moda. Da un lato, la si segue per appartenere a un gruppo, dall'altro, per differenziarsi ed essere unici. Non si tratta di un capriccio o di un semplice passatempo per signore annoiate. La moda è un comportamento sociale che risale alla notte dei tempi. Maniera, regola, norma. Questa è la traduzione del termine latino modus, che diventa per la prima volta moda, come noi la intendiamo, nel trattato La carrozza da Nolo, ovvero del vestire alla moda, pubblicato a metà del 600 dall'abate Agostino Lampugnani. Se inizialmente la funzione dell'abito è puramente quella di coprirsi, presto diventa un modo per differenziare le classi e le mansioni, per esempio sacerdotali, amministrative o militari. I tessuti e i coloranti, da sempre costosi, sono appannaggio dei ricchi, mentre i poveri si accontentano di stoffe mal tagliate e del grigio, la tinta più economica. La sartoria si sviluppa lentamente a partire dal XIV secolo, quando i vestiti cominciano ad aderire alle forme del corpo, e il sarto, rigorosamente maschio, è un importante personaggio di corte. Le donne lavorano al telaio e si occupano dei ricami, mentre perfino artisti come Giotto e il Pollaiolo si cimentano con la creazione di modelli. Questo la dice lunga sul valore culturale che la moda ha assunto nella storia, diventando una vera e propria forma d'arte. Alla fine del Settecento, nelle corti di Francia, gli abiti sono scomodi, magnifici e simboleggiano il potere. La rivoluzione francese ribalta ogni legge e abolisce le rigide divisioni. Aristocratici e borghesi possono finalmente scegliere di vestirsi come preferiscono e ad agevolare la produzione arriva l'impetuoso sviluppo delle macchine che consentono costi bassi. Dal XIX secolo si iniziano a distinguere i primi stilisti, che creano nuovi tagli, nuove stoffe e nuovi canoni nel modo di abbigliarsi, per esempio con l'adozione di nuovi abiti femminili come il tailleur, inventato dall'inglese Redfern. Si capovolge il rapporto tra il sarto e la cliente che a lui si affida, ben felice di indossare capi unici, disegnati e realizzati apposta per lei. Il centro di tutto, dal Re Sole in poi, è Parigi. Ed è qui che nel 1945 arriva un giovane e talentuoso italiano in cerca di fortuna. Si chiama Pietro Cardin, ma da tutti sarà conosciuto come Pierre Cardin. Pierre Cardin. A Saint-Michel, la Seine, oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre sont de retour. Il fait si bon, ma mie, de céder à l'envie d'un baiser que l'on prend, que l'on donne en même temps au milieu de la fête du printemps. Sant'Andrea di Barbarana, una piccola frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. È qui, sulla riva destra del Piave, che nel 1922 viene alla luce il piccolo Pietro Cardin. Una terra verdeggiante e alquanto fertile fa sì che l'agricoltura sia una grande risorsa nella zona, anche se la Prima Guerra Mondiale ha ridotto moltissime famiglie in rovina. L'esercito marciava per la La famiglia Cardin lavora la terra e si adegua ai ritmi di lavoro faticosi che accomunano gli abitanti di tutta la pianura padana nei primi decenni del Novecento. La giornata inizia all'alba, sia d'estate che d'inverno, durante la settimana e anche quando è festa. Le mucche da mungere aspettano. C'è solo il tempo per darsi una lavata alla faccia con l'acqua gelata nel catino accanto al letto. Il gabinetto è all'esterno. Di notte, in caso di bisogno, si usa il vaso. E il bagno lo si fa in un mastello della stalla, uno dei luoghi più caldi della casa. C'è sempre qualcosa da fare: dare da mangiare ai maiali, agli altri animali da cortile, raccogliere il letame con una carriola, portarlo sulla concimaia, per poi concimare i campi verso l'autunno, portare il latte ottenuto con la mungitura al caseificio più vicino. Oltre al latte, si vendono il grano, le barbabietole, l'uva e i bovini ceduti. La famiglia Cardin, come le altre, fa un'abbondante colazione per avere risorse fino all'ora di pranzo. Una scodella di latte con dentro il pane del giorno prima, accompagnata qualche volta dalla polenta o da qualche fetta di salame casalingo. C'è stato un periodo in cui i miei genitori riuscivano a vivere dignitosamente, anzi, se la cavavano piuttosto bene. Poi è arrivata la Grande Guerra ed ha portato con sé la vera povertà. Il lavoro segue le stagioni. Semina in primavera, mietitura e trebbiatura d'estate, vendemmia e aratura in autunno. Le massaie quasi tutti i giorni tirano la pasta e si va a letto presto, dopo essersi riscaldati un po' in cucina tra le favole per i bambini e i racconti dei vecchi. Il papà di Pietro, spesso, va al bar a giocare a carte con gli amici. Un rito tutto maschile, perché le donne stanno in casa a cucire, stirare o fare il bucato. Il grande evento di festa nella vita di ogni famiglia contadina, a cui accorrono tutti i vicini, è l'uccisione del maiale prima di Natale. Una pratica che in un periodo di povertà e miseria consente di mangiare per un anno tra minestra di lardo, qualche fetta di salame, coppa e prosciutto e lo strutto per friggere. La fame è sempre stata una costante per questa civiltà contadina descritta da capolavori del cinema come L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi o Novecento di Bertolucci. Destino, nascere lo stesso giorno. Destino, ci tocca bere. Signor Alfredo, lo sapete quanti dalcoci sono adesso? Ho perso il conto. Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare. È andata bene, Leo. Pensaci, sarà un paesano, ma almeno è un maschio. Perché i maschi non mangiano? Stanchi di sopravvivere e con la speranza di un futuro migliore, i Cardin decidono di seguire il destino di migliaia di connazionali. Emigrano in Francia, a Saint-Étienne, il capoluogo del dipartimento della Loira. Il piccolo Pietro ha soltanto 2 anni e tutti incominciano a chiamarlo Pierre. Anche il cognome, che non tradisce l'origine italiana per la mancanza della vocale finale, è facile da francesizzare. Eppure Pierre Cardin, che la sua terra natale ha fatto appena in tempo a vederla, si sente profondamente italiano e profondamente veneto. Io sono un italiano, figlio di emigranti, e anche se la mia storia è legata alla Francia e l'Italia non mi ha mai reso onore come l'hanno fatto altri paesi del mondo, ho sempre rivendicato con orgoglio le mie origini. L'infanzia e l'adolescenza di Pierre trascorrono serene, circondato da nuovi amici e in una situazione economica che, pur non essendo di ricchezza, è comunque dignitosa. Può dedicarsi allo studio e alla sua passione, il cucito. Gli piace stare vicino a sua madre quando rammenda, le suggerisce soluzioni spesso creative per coprire gli strappi, osserva l'abbigliamento delle vicine di casa che sempre di più vogliono ispirarsi alle riviste. La professione del sarto è di grande prestigio e in Francia ci sono scuole importanti che danno una formazione approfondita, ma in questo campo, più che in altri, l'esperienza è più importante di qualsiasi libro. Ed è così che il giovane trevigiano approda nel piccolo atelier di un sarto di Saint-Étienne. L'apprendistato comincia nel 1936, quando è ancora un ragazzino, e continua fino a quando esplode una nuova tragedia del Novecento, la Seconda Guerra Mondiale. Cardin investe tutte le sue energie nel servizio di Croce Rossa, ma non smette di pensare neanche per un minuto che la sua strada sarà quella della moda. Ha una determinazione che va a braccetto con l'imprudenza. Lo guida il suo istinto, anche quando gli altri lo considerano soltanto un folle sognatore che non si arrende ai brutti scherzi della vita. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Pierre Cardin, idee chiare e tanto entusiasmo, una volta finita la guerra, decide che è il momento di riprovare davvero a diventare un grande stilista. Arriva da Monby, Sarto a Vichy, ma presto si accorge che per farcela davvero deve fare il grande salto, trasferirsi a Parigi, la culla della moda. Elegante, snob e decisamente affascinante. Questa è la Ville Lumière. Nessuno può metterci piede senza rimanerne catturato, figuriamoci un giovane povero e di belle speranze cresciuto da immigrato nella provincia francese. Pierre, solo e senza un soldo in tasca, scende dal treno delle 8 di mattina e cammina verso la zona di Rue des Faubourg Saint-Honoré. È qui che ci sono i grandi atelier e spera di trovare un lavoro. Il tragitto è lungo e la sua mente vola all'improvviso alle parole che una cartomante gli aveva detto pochi mesi prima. Avevo incontrato questa signora, questa cartomante, e le avevo domandato cosa sarebbe stato di me, della mia vita. Lei all'inizio non voleva parlare, allora ho insistito. Le ho detto che sarei andato a Parigi, che volevo sapere il mio futuro, e lei ha cominciato a leggere le carte. Mi chiamava Pierino, che personaggio. Non avevo mai incontrato nessuno come lei. Mi ha detto: Pierino, tu arriverai ai frutti più alti, a milioni di fiori, fino alla tua morte. Avrai una carriera come nessun altro di quelli a cui ho letto le carte. Avrai una fortuna colossale in tutti i paesi del mondo. Che cosa ridicola. Un giovane come me, senza soldi, senza amicizie, che mi permettessero di andare in Australia, in America o in Africa. È una domenica di novembre, il freddo si taglia col coltello e la neve, che continua a cadere ma si è già fermata sui marciapiedi, fa scivolare ad ogni passo. Siamo nel 1945. I tedeschi, dopo l'occupazione, hanno lasciato fame e miseria. Eppure la voglia di rinascita dopo il dolore si respira nell'aria. Tutti vogliono ricominciare, ripartire da zero, dare vita a un futuro diverso per sé e per il mondo. Pierre, che non ha altri riferimenti se non un indirizzo, arriva all'angolo di Faubourg Saint-Honoré, tremante e affamato, e nota un signore a cui subito si avvicina per chiedere indicazioni. L'uomo incuriosito gli chiede che cosa stia cercando in Rue de Faubourg Saint-Honoré. Non mi aspettavo che mi rispondesse così. Ho dovuto dire una bugia, ho detto che cercavo un amico che abitava lì. Non potevo dirgli che mi volevo proporre come sarto in un atelier. Allora lui mi ha chiesto come si chiamava questo mio amico, io non sapevo cosa dire e lui ha capito tutto. Mi ha sorriso e mi ha invitato a bere un caffè. Abbiamo chiacchierato a lungo. Lui lavorava per Jean Paquin e il giorno dopo anch'io avevo un lavoro lì. Jean Paquin è una rinomata stilista con uno spiccato senso degli affari che ha cominciato a proporre i suoi modelli nei primi anni del Novecento e che attraverso un uso sapiente della pubblicità è riuscita in pochi anni ad aprire boutique in tutto il mondo. Quando Pierre Cardin incomincia a lavorare nella Maison, lei si è già ritirata, ma ha lasciato in eredità un gusto moderno che si è ispirato, per esempio, al Giappone e allo stile imperiale. La grande occasione che il giovane e talentuoso trevigiano ha per mostrare quanto vale arriva con un film. Il regista Jean Cocteau gli chiede di realizzare i costumi per La Bella e la Bestia, in concorso alla prima edizione del Festival di Cannes. Bella, ti ha fatta nulla? Bella, sempre bella! Cosa vi importa di Bella? Stavate per uccidere Capriol! Bella, pulisci tu per terra, noi abbiamo il concerto dalla duchessa. Assassini. Le mie sorelle sgualdrine. Bere, andare a donne e barare al gioco. Del resto se ne impicchiano. Quando si è in miseria si sta a casa a lavare i panni e a pulire le casseruole. Invece queste due sgualdrine si credono principesse e non si rendono conto che tutti le prendono in giro. Rispondi. Troppo onore. Il risultato è strepitoso e Cardin, applaudito da tutti i giornali, entra ufficialmente nel mondo della moda. Le sue frequentazioni adesso sono di alto livello, tra attori, musicisti e grandi artisti del calibro di Matisse, Braque e Picasso. Elsa Schiaparelli, storica antagonista di Coco Chanel, che con lei si contende il titolo di rivoluzionaria dei costumi femminili, lo chiama a lavorare nel suo atelier e lui non crede alle sue orecchie. Lei era creativa, moderna, intellettuale, esperta d'arte. In poche parole, Elsa era la moda. Greta Garbo, Catherine Hepburn e la duchessa di Windsor, tutti avevano comprato da lei. I suoi pullover lavorati a mano dalle donne armene erano andati a ruba. E poi le sue stampe folli, le tasche dei tailleur a forma di cassetto che aveva fatto con Dalì. Mi sembrava un sogno avere la possibilità di imparare da lei. Cardin ha sempre avuto una grande passione per il cinema e per il teatro, al punto d'avere più volte pensato, ma senza mai avere il coraggio di tentare, di recitare. Adesso che tutti lo cercano, per lui la cosa più bella è realizzare i vestiti degli attori. Ha la sensazione di contribuire alla riuscita di un film o di uno spettacolo tanto quanto loro. Non ha nemmeno 25 anni, ma un'esperienza concentrata in pochi mesi l'ha formato più di quanto non abbiano fatto altri che vi hanno dedicato un'intera vita. È determinato, curioso, con uno sguardo al passato per non dimenticarlo, ma la volontà di proiettarsi sempre verso il futuro. Jean Cocteau, che non si è risparmiato in complimenti quando ha visto per la prima volta i costumi di La Bella e la Bestia, decide che il giovane trevigiano deve assolutamente conoscere l'uomo che, approfittando dell'allontanamento momentaneo dalle scene di Coco Chanel, sta inventando una donna completamente nuova. Ed è così che Pierre Cardin, ormai già parigino d'adozione, incontra Christian Dior. Tra poco, a Destini Incrociati. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1946 e il giovane Pierre Cardin si sta facendo le ossa nel mondo della moda che a Parigi trova la sua culla d'eccellenze. Nato in campagna, in provincia di Treviso, Pietro, questo è il suo vero nome, vive in Francia dall'età di 2 anni, quando i suoi genitori, agricoltori finiti in rovina dopo la Prima Guerra Mondiale, avevano pensato che emigrare fosse l'unica soluzione per sopravvivere. Ancora adolescente, Cardin sta già facendo pratica come apprendista presso alcuni sarti e si scopre bravissimo. Per questo motivo decide di tentare la fortuna nella capitale, dove in effetti viene subito preso all'atelier Paquin, per poi passare alla Maison Schiaparelli. Da quando ho fatto i vestiti per La Bella e la Bestia di Cocteau, ho iniziato a frequentare il bel mondo. Mi trovavo nei caffè con gli artisti del momento, gli attori e i registi mi chiedevano consigli. E poi un giorno Cocteau mi ha fatto conoscere Dior. Christian Dior, con l'aiuto finanziario di Marcel Boussac, il re del cotone, sta per aprire un atelier. Ha in mente di rilanciare la moda francese, che adesso subisce la forte concorrenza di quella americana, e approfitta del temporaneo allontanamento dalle scene di Coco Chanel, che ha chiuso il suo negozio per colpa della guerra. Cardin è il primo impiegato della boutique Dior di Avenue Montaigne ed entra tutte le mattine alle 8 e se ne va la sera alle 9. Una volta ritornata a Parigi, Coco Chanel dirà che Dior addobba delle poltrone, non veste delle donne. Un'opinione che non nasconde lo stupore di aver trovato uno stile francese totalmente rivoluzionario rispetto ai suoi canoni. Quello stile che Pierre Cardin e Christian Dior hanno chiamato New Look. Reazione all'austerità della guerra, il New Look disegna una silhouette con una vita di vespa e un corpetto attillato che valorizza il petto e i fianchi, mentre l'orlo della gonna si amplia e si abbassa con l'aiuto di tagli ingegnosi del tessuto, imbottiture e steccature. Il modello Bar, uno dei più celebri, è un abito da giorno con giacca fortemente ciancrata e gonna pieghettata. La stessa collezione propone anche gonne a tubino al di sotto del ginocchio, sempre molto strette in vita. Rimettere in linea il proprio corpo simboleggia il guarire dalla guerra. Fioriscono corsetti e nasce la Guêpière. Le pubblicità parlano di una donna mai vista prima. Dopo anni di perplessità, le gonne si sono decise al gran salto, accorciandosi fin quasi al ginocchio. Questa è la famosa bomba Dior. Senza dubbio c'è una scoperta. Nei vestiti l'esplosione è abbastanza atomica, ma queste sono le bombe che ci piacciono, anche se favoriscono una guerra tutt'altro che fredda. Pierre Cardin, troppo inquieto per rimanere a lungo nello stesso posto e soprattutto troppo smanioso di tentare il grande salto da solo, lascia la Maison Dior dopo 3 anni, aggiungendo anche il nome del grande maestro nel suo già ricco bagaglio di esperienze. È il 1950 quando apre la sua casa di moda. Pochi mesi dopo, supportato da Vogue America, presenta la sua prima collezione al 118 di Rue Saint-Honoré. Ne ha fatta di strada in così poco tempo, da quando era arrivato senza soldi e infreddolito una domenica di novembre per proporsi come sarto alla Casa Paquin. Ma adesso sono tutti per lui, il pubblico e la critica. Ricche signore e riviste specializzate accolgono a braccia aperte il suo stile all'avanguardia ispirato all'era spaziale. Cosmo e Satelliti decorano gli abiti di una donna lavoratrice, inserita nella società, non più una donna con la servitù che aveva conosciuto da Dior. Cardin non sottolinea le forme femminili, preferisce forme e motivi geometrici come il bubble dress, il vestito a bolle, datato 1954. Nel corso degli anni dà uno slancio decisivo alla moda unisex. Nel 1959 è il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d'alta moda, fa sfilare gli uomini e cerca nel prêt-à-porter il giusto compromesso fra la qualità e il prezzo. Una scelta insieme a quella di mettere la creatività e la sperimentazione davanti all'eleganza, che spesso fa storcere il naso a molti suoi colleghi. C'è un giovane, invece, che di questo spirito provocatorio, che se ne frega degli altri, fa un modello da imitare. Folle ed eccentrico, capelli biondo platino, kilt e marinara, il suo nome è Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Parigi, fine degli anni 50. Pierre Cardin è già uno stilista affermato e fa scelte controtendenza che gli costano il posto nella Federazione Francese della Moda. Si mette a vendere i suoi vestiti nei grandi magazzini e non si fa problemi a mettere la sua firma su qualsiasi oggetto, dai foulard alle piastrelle. Mentre per la maggior parte dei suoi colleghi si sta svendendo, Jean-Paul Gaultier, che è ancora soltanto un ragazzino che sogna la moda, lo considera una specie di mito. Quando sfoglia le pagine delle riviste patinate della mamma con le fotografie dei modelli Cardin, la fantasia galoppa. Non lo sa ancora, non lo può immaginare, ma proprio Pierre Cardin è l'uomo scritto nel suo destino. È una calda giornata di fine aprile del 1952 quando Jean-Paul Gaultier viene alla luce ad Arcueil, appena a 2 chilometri a sud di Parigi, ma senza esserne la grigia periferia. Forse è per questo se il ragazzino dall'aspetto angelico ma con un temperamento che da sempre lo fa identificare nella figura dell'enfant terrible adora i colori. La mia camera era un trionfo di colori e quando disegnavo usavo soltanto pastelli dai colori accesi. Più gli accostamenti erano strani e più mi divertivo. Facevo facce verdi, capelli arancioni, mani rosse, valeva tutto. Il punto di riferimento di tutta l'infanzia di Jean-Paul è l'amatissima ed eccentrica nonna, chiacchierona, sempre pronta a raccontare storie fantastiche che ha vissuto da ragazza, con una passione sfrenata per i vestiti, cuce da sola, ispirandosi ai modelli delle riviste che rielabora nei modi più fantasiosi. Jean-Paul passa ore a guardarla, si diverte ad annusare i profumi che tiene su un tavolino del bagno. Qualche volta, quando le boccette stanno per terminare, lei gli permette di mescolare gli odori con gli ingredienti che preferisce. Di certo, è anche in questi piccoli momenti di intimità familiare che si forma un talento. La nonna indossa sempre moltissimi braccialetti e il nipotino, per fargliene sempre di nuovi, ritaglia lattine. Con le stoffe avanzate veste i peluche, che sorprendono visti tutti insieme per il gusto stravagante ma ricercatissimo che non è certo da tutti i ragazzini. In un vecchio baule, un giorno, scopre i corsetti e il fascino della seduzione femminile. È proprio questo l'elemento che caratterizzerà molte delle sue collezioni. Difficilmente la casa è vuota, c'è sempre qualcuno che cerca la nonna per farsi leggere le carte, dal momento che è una chiromante dalle capacità molto apprezzate. Quando Gaultier incontrerà per la prima volta Pierre Cardin, il maestro, memore delle previsioni sul suo roseo futuro che erano uscite dalla lettura delle sue carte, vorrà sapere tutto di questa magica figura della nonna. Devo aver detto qualcosa tipo che mia nonna era speciale, qualcosa del genere, e abbiamo iniziato a parlarne. Entrambi credevamo che il destino fosse scritto nei tarocchi, e questa è stata di certo una delle cose che ci ha unito. A 18 anni, in un momento in cui tutti sono di solito confusi su quello che vogliono diventare da grandi, Gautier ha già le idee chiarissime. Farà lo stilista. Da sempre la moda lo appassiona e ancora ragazzino aveva iniziato a mandare in giro i suoi cartamodelli per le maison più famose, senza purtroppo mai ricevere alcuna risposta. Ma adesso vuole prendere in mano la situazione e andare a bussare di persona dallo stilista che più ammira al mondo, Pierre Cardin. Siamo nel 1970 e il grande maestro italiano ha già messo in atto la sua coraggiosa rivoluzione. Vendere i suoi abiti di taglio geometrico nei grandi magazzini e firmare una molteplicità di oggetti che va dagli occhiali da sole alle piastrelle del bagno. Accusato di avere commercializzato troppo la moda, che per definizione dovrebbe essere elitaria, viene guardato come un provocatore dalla maggior parte dei suoi colleghi. Ma per Jean-Paul Gaultier, invece, le sue parole sono un'ispirazione da seguire. Senza cimentarmi direttamente negli affari, senza pensare di fare e di costruire, probabilmente non mi sarei mai divertito, non mi sarei mai sentito completo né realizzato. Credo di avere uno spirito che predilige l'azzardo, le grandi sfide. Sono curioso, sperimentale. Possiedo una vocazione a scoprire territori, frontiere e modalità spesso ignote. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1970 e Jean-Paul Gaultier, un giovane cresciuto ad Arcueil, 2 chilometri da Parigi, sogna di lavorare nel mondo della moda. Fin da bambino, supportato da una nonna chiromante che gli ha trasmesso la sua eccentricità, Jean-Paul aveva imparato ad apprezzare i vecchi corsetti e i bracciali dalle forme irregolari. Era solito, mentre lei cuciva, starle accanto per imparare e prendeva poi gli scampoli per creare modelli con cui vestire i peluche. Dopo aver mandato vari cartamodelli alle più celebri maison, sperando invano di ricevere una risposta, adesso che ha 18 anni si è deciso a bussare alla porta del suo più grande mito. Pierre Cardin. Ho sempre ammirato Cardin più di chiunque altro, perché ha sempre fatto di testa sua, anche quando era solo contro tutti. Ha scelto di rendere la moda democratica e fin dai suoi primi abiti ispirati al cosmo ha dimostrato di guardare sempre al futuro. Avrei fatto carte false per lavorare per lui. Quando la sua segretaria gli dice che un giovane dall'aspetto bizzarro ha un appuntamento con lui, Pierre Cardin immagina che si troverà davanti uno dei tanti sedicenti stilisti che sperano di far fortuna nella moda più per quello che rappresenta che per quello che realmente è: creatività, fatica e talento. Nonostante la disillusione dovuta ai tanti anni di esperienza, però, Cardin ha l'abitudine di concedere a tutti una possibilità, proprio perché lui stesso ha cominciato da zero, con zero soldi e tanti sogni. Quando sei stato un giovane di belle speranze e hai provato sulla tua pelle molti no, l'istinto ti porta a simpatizzare per quelli che ti ricordano com'eri molti anni prima. E così Jean-Paul Gaultier entra nell'ufficio di Pierre Cardin. Il giovane, per nulla intimidito, comincia a mostrare i disegni, ma il maestro lo ascolta distrattamente, incantato com'è dal suo stravagante abbigliamento. Kilt senza calze, maglietta a righe, capelli biondo platino. Nessuno, 2 anni dopo il 68 dei Figli dei Fiori, si vestirebbe così. Per questo Cardin, senza neanche lasciarlo finire, decide di seguire l'istinto e di prendere Gaultier a lavorare nella storica maison. Non mi ero vestito così per fare colpo. Quello stile per me era normale. Solo che mentre tutti per strada mi guardavano come se fossi un alieno, Cardin ha capito che quel mix era espressione di un talento. Qualche volta genio e sregolatezza non è un modo di dire, e basta osservare Jean-Paul Gaultier al lavoro per rendersene conto. Creativo ai limiti della follia, capace di trarre ispirazione da qualunque cosa, accompagna il suo talento con un carattere lunatico e capriccioso che lo spinge dopo solo un anno da Cardin di andarsene per tentare la fortuna dal Sarto Esterel e poi ancora alla Maison Patou. Cardin, da saggio mentore, sta a guardare e aspetta il ritorno del suo pupillo, che prontamente avviene nel 1974. Lo so che non è facile starmi accanto, anche per questo Pierre è unico, perché ha capito che anch'io, così sfrontato nel look e nel modo di pormi, avevo delle insicurezze. Mi sono reso conto che ho sbagliato ad andarmene, e quando sono tornato e lui mi ha mandato nelle Filippine a curare le sue collezioni, ho capito che senza di lui io non sarei mai diventato nessuno. Quando i figli sono abbastanza grandi per spiccare il volo da soli, abbandonano il nido, e questo, dopo un tentativo sbagliato, è il momento giusto per Jean-Paul Gaultier, che, ringraziandolo per tutto con un lungo abbraccio, lascia Pierre Cardin e la sua maison. 1976. Gaultier è più maturo, ma ha comunque una gran voglia di divertirsi. La moda per lui è e sarà sempre una forma di trasgressione rispetto alle convenzioni, e su questa idea fonda con due amici d'infanzia, Daniel e Francis, la sua prima sartoria. Consapevole che il modo migliore per attirare l'attenzione in un mondo dove la concorrenza è alle stelle è quello di provocare fino a dove mai nessuno è arrivato prima, fa sfilare alcune modelle con tutù trasparenti sotto maglioni da pescatori norvegesi. E mette addosso a uomini dal fisico prestante kilt scozzesi non proprio tradizionali. Il momento è perfetto. Si respira ovunque una gran voglia di rinnovamento, e l'enfant terrible di Arkay, con le sue proposte innovative, fa centro. La stampa specializzata di tutto il mondo si accorge di trovarsi di fronte a un genio capace di mescolare gli stili con un effetto strepitoso. Pierre è venuto a farmi i complimenti, e per me è stata la gioia più grande. Ci siamo guardati negli occhi, per lui ero come un figlio, e ci siamo commossi entrambi. Memore degli insegnamenti del suo maestro, che si era inventato uno stile unisex, Gaultier gioca con l'ambiguità sessuale, disegnando gonne e pantaloni per le donne e pantaloni gonna per gli uomini. Nel 1988 nasce la linea per bambini, e nel 1992 Gaultier Jeans. Ma tutto questo è solo una delle mille attività del Monello di Parigi, che si dedica al design, ai costumi per il teatro, per i balletti, per i film d'autore, come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante di Peter Greenaway. Che cosa hai visto? Devi dirmelo. Lo sapevi soltanto tu. Tutti mi compativano, anche tu mi compativi. Come posso essere sicura che lui mi abbia amata se non ci sono testimoni? Come puoi esserne sicura se tu amavi lui? La tua non mi sembra affatto una domanda necessaria. Sì, che lo è! Dimmi tutto quello che sai! Gli anni 90 hanno una grande icona, Madonna. È lei in persona che chiede a Gaultier di disegnarle gli abiti da indossare per il suo tour mondiale del 1990. Lui, ripensando al cassetto della nonna, crea stravaganti bustini di raso con le stecche in vita e le dice che vanno messi sopra i vestiti. Poi la stupisce con l'indimenticabile reggiseno corazzato, che entra immediatamente nell'immaginario di uomini e donne di tutto il pianeta. Ormai divo delle passerelle, su cui fa sfilare piercing, tatuaggi, anziani e modelle sovrappeso, a consacrarlo arriva il profumo che porta il suo nome, il primo di una lunga serie dalle boccette stravaganti, tra le quali spicca il celebre busto femminile, ancora una volta ispirato alla sua amata nonna. Pierre Cardin brinda al suo successo da lontano, seduto al tavolo del suo leggendario ristorante Chez Maxime con un bicchiere di prosecco. E chissà che da qualche parte, con i tarocchi in mano, anche le due donne che hanno predetto a entrambi un destino di felicità non stiano festeggiando. You're fascinating me.